E stasera ho il piacere di presentarvi padre Don Vittorio, che è l'organizzatore e il direttore della così efficace compagnia, comunità di San Egidio a Roma. Penso che qualcheduno almeno sia al corrente dell'attività, e ho pregato di venirti a parlare appunto della sua attività nei confronti di molti che sono a Roma, sia musulmani che non musulmani emigrati, e vedere quale spirito sono riusciti a costituire in questa loro comunità per agganciare, per avere relazioni fraterne con chi non è italiano o povero italiano. Padre. Ringrazio padre Giulio anche per i titoli eccessivi di cui mi fa carico. Non sono direttore, ma sono semplicemente un membro della comunità di Sant'Egidio, la quale ormai da diverso tempo lavora e incontra il mondo musulmano. Stasera quindi il mio discorso sarà una testimonianza sulla vita e sull'incontro della comunità di Sant'Egidio con le chiese d'Oriente e anche con i musulmani, l'Islam che è presente in Italia, ma anche l'Islam nella sua casa, quindi l'Islam dall'altra parte del Mediterraneo. Effettivamente, così come ci ricordava oggi anche l'imam di Vienna, possiamo dire che il Mediterraneo sia davvero un po' la pancia del nostro mondo. Effettivamente nella percezione anche dell'Europa e del mondo musulmano il Mediterraneo si presenta come un polo quasi attrattivo. Monsignor Henri Tessier, oggi arcivescovo di Algeri, scrive nel suo libro e parla nel suo libro di una nuova Yalta, vale a dire di un Mediterraneo che è diviso a metà, come la Yalta della fine della guerra, in una spaccatura che è necessario in qualche modo sanare. Ed effettivamente il panorama del Mediterraneo è un panorama in cui la coabitazione sembra essere entrata in crisi. C'erano le speranze di un tempo, le speranze alimentate dal cardinale Duval, per esempio in Algeria. C'erano le speranze alimentate anche dall'orientalista più volte citato, Massignon. C'erano le speranze di questa coabitazione alimentate anche da personaggi, da personalità del mondo italiano. Fra gli altri penso a Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, e vorrei dire utopista cristiano, di quell'utopia concreta che vede possibile realizzarsi dei sogni. A sfogliare per esempio la rivista in lingua francese Etude Méditerranée, alla quale La Pira collaborava, trasuda tutto un sogno per un Mediterraneo in cui la coabitazione fosse una realtà possibile. Eppure il panorama attuale sembra segnato da una crisi di senso opposto. Lo vediamo in Libano, dove purtroppo la guerra e tanti altri fattori segnano ormai da più di 10 anni una tragica spaccatura. Ma lo vediamo anche nell'isola che c'è di fronte, o lì vicino al Libano, lo vediamo nella convivenza difficile, quasi una sorta di tregua armata che esiste a Cipro tra la comunità greca e quella turca. E poi, sotto gli occhi di tutti e a conoscenza di tutti, il dramma palestinese, di questa terra martoriata ormai da tanto tempo, da più di 40 anni, da 50, dagli inizi forse del secolo, da questa latente minaccia proprio alla coabitazione. Giustamente quindi Monsignor Tessier parla di questa nuova Yalta che sembra dividere, sia nell'ignoranza o nella distanza con cui si percepiscono a vicenda i due mondi, ma anche nella difficoltà di arrivare a una soluzione politica della vicenda. Tutto questo in realtà ha radici antiche, questa crisi non è una crisi che scoppia oggi. Bisogna forse riportarsi al crollo dell'impero turco, crollo di un impero di per sé multirazziale, multireligioso, e forse al crollo di tutti quanti, penso anche all'impero austriaco per certi versi, al crollo della multirazzialità che coincide grosso modo con la fine della prima guerra mondiale. Come ben sappiamo l'impero turco era effettivamente un impero multirazziale e multireligioso, che aveva al suo interno saputo costruire nel tempo un sapiente equilibrio di convivenze intessute sulla concezione del millet, di questa nazione, che non aveva effettivamente una sua specifica autonomia territoriale, bensì trovava la sua identità nella confessione religiosa stessa. All'interno cioè dell'impero turco convivevano questi millet caratterizzati dalla diversa confessione. Con la fine dell'impero turco si affermano man mano i nazionalismi, si affermano un'idea di nazionalismo che prende piede nei diversi paesi arabi e paesi musulmani. È noto come anche la stessa rinascita araba abbia avuto la Nahda, abbia avuto delle influenze e un notevole apporto cristiano, ma nonostante questo la crisi attuale ha senza dubbio delle radici in quel contesto che può essere situato subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Accanto a questo, per ricordare il dramma palestinese, evidentemente non ci si può non rifare a tutto quanto il filone di pensiero politico, ma forse anche religioso, che è il discorso sionista, che ha trovato quindi una base di giustificazione teologica all'ingresso, all'installazione dello Stato di Israele da parte appunto degli ebrei. E poi forse anche la fine del colonialismo ha significato in fondo, in qualche misura, una certa crisi, lì dove spiriti europei più aperti sognavano in qualche modo una coabitazione, quindi forse un nuovo modo di rapportarsi. Già citavamo prima l'idea, il vigore, il pensiero del Monsignor Duval. D'altro canto è anche vero che nel mondo arabo la fine del colonialismo ha anche coinciso con una rinnovata percezione dell'Europa come potenza appunto dominatrice, sfruttatrice, presente in maniera impropria in terre, in culture non sue. Oggi assistiamo a un'ulteriore crisi di questa coabitazione. Infatti la coabitazione sembra essersi spostata dal lato sud della Pancia al lato nord. Quest'ondata che proviene dal sud del mondo e in particolare per quanto riguarda l'Italia, dal Nord Africa, dalla Siria, dall'Egitto, dalla stessa Palestina, dal Libano, è effettivamente un fenomeno presente. Calcolano i demografi, i sociologi, che nel 2000 l'incremento della popolazione nella fascia sud del Mediterraneo, quindi diciamo dalla Turchia fino al Marocco, sarà di circa 100 milioni di unità. Anche dal dopoguerra a oggi i paesi per esempio del Maghreb hanno conosciuto un incremento demografico incredibile, hanno quasi raddoppiato le loro cifre. L'Algeria passa da 10 milioni a 20 milioni, così è per il Marocco. La Tunisia, paese più ristretto dal punto di vista della popolazione, passa anche lei però da 3 milioni e mezzo a 7 milioni. Questa ondata dal sud ha provocato delle reazioni in tutta l'Europa. È a conoscenza di tutti una certa ondata di razzismo. Conosciamo le prese di posizione in Francia dell'estremista Le Pen. Si parla qua e là di un'Europa che correrebbe il rischio di essere islamizzata. In Italia in particolare quest'ondata, diciamo così, intollerante o quantomeno preoccupata, un po' nervosa nei confronti di questi nuovi ospiti, ha assunto l'anno scorso per esempio i colori di un'intolleranza più manifesta nei confronti di ospiti di più antica data. Penso in particolare alle manifestazioni di intolleranza nei confronti degli zingari che abbiamo letto sulla stampa, abbiamo vissuto nelle città, nelle maggiori città italiane, Roma, Genova e altrove. Eppure, a una riflessione più attenta, non solo la coabitazione è necessaria, ma è anche, parola che è stata evocata in questi giorni, una chance. Nell'incontro, anche se complesso, esiste sempre infatti una ricchezza. E in fondo, peccato che il vescovo sia andato via, lo dico in una terra in cui la coabitazione è effettivamente, con problemi e prospettive diverse, una chance, una prospettiva, una ricchezza. Penso in questo senso al messaggio lanciato dal Concilio Vaticano II, come di una fiduciosa speranza nell'uomo, penso anche alla storia concreta, potremmo dire all'itinerario spirituale umano, di grandi uomini religiosi, di figure importanti di questo nostro secolo, che hanno trovato nella convivenza, nell'aver storicamente convissuto o vissuto in terra, in paese in cui la convivenza era praticata, una ricchezza ulteriore, una saggezza. Mi viene alla mente l'itinerario umano, religioso, storico di Papa Giovanni, il quale fu nunzio in paesi come ad esempio la Turchia, in cui la convivenza, la coabitazione era un problema, era una realtà. Penso anche per esempio al patriarca Athenagoras, patriarca Alfanar in Istanbul, patriarca greco ortodosso, il quale anche lui descrive in un libro intervista uscito recentemente anche in italiano questo suo radicarsi in una tradizione di coabitazione. E in questa prospettiva di sforzo per la multirazzialità, per l'incontro, per l'accoglienza, ma anche prospettiva in cui ci si accorge delle difficoltà, che si colloca appunto l'esperienza della comunità di Sant'Egidio come un'esperienza di fiducia nell'amicizia che affonda le sue radici in una realtà locale per poi radicarsi in altre situazioni. La comunità infatti nasce nel 1968 in un liceo di Roma. Anno di grandi speranze, anno di grandi aperture, anno di nervosismi, inquieti, anno anche in cui però andava concludendosi il Concilio Vaticano. A Roma, in quell'epoca, studi sociologici intrapresi anche dalla municipalità stimavano in 100.000 le persone che abitavano nelle baracche e la comunità si sentì chiamata ad operare con quei poveri, a operare con quelle persone marginali nella periferia della città. Oggi la comunità è cresciuta, conta circa 5.000 membri a Roma, 8.000 nel mondo, con delle comunità in Italia, in Europa, in Sud America e con, potremmo dire, piccoli arcipelagi di amicizia un po' sparsi nel mondo appunto musulmano. Per noi, per la comunità, essere comunità ecclesiale è sempre stato avere a cuore tutta la Chiesa, senza chiudersi nel particolarismo di quello che uno aveva già capito o di quello che già si faceva o si sapeva. Nati a Roma. Roma come una città internazionale, Roma come una città centrale nel panorama cristiano, in particolare evidentemente quello cattolico. Quasi un segno per noi della chiamata del Signore essere nati lì. Il mondo e la Chiesa li abbiamo pian piano scoperti come un mondo e una Chiesa assai vasti. Roma come un osservatorio privilegiato nel quale radicarsi ma non chiudersi. Ecco allora che nel tempo l'antica fedeltà ai poveri della periferia romana si è allargata e accanto a questo radicarsi nella realtà locale è cresciuto il desiderio di essere vicini alle tante esperienze di chiesa che Roma in qualche modo soffriva. Uomini di fede, preti, vescovi venivano di frequenza a Roma per i contatti necessari in Vaticano con la città eterna. Il dono quindi per noi di una testimonianza che ci veniva da lontano e che poteva essere raccolta in una accoglienza simpatica e affettuosa. Il seme di queste amicizie a cui ci sentivamo di dover restare fedeli. Nella fedeltà noi abbiamo scoperto che queste amicizie potevano crescere e potevano aprirci orizzonti che prima non conoscevamo. Per noi, come comunità, è stato importante quindi scoprire una solidarietà concreta con le chiese più povere, noi figli di un mondo ricco e di una chiesa antica. Abbiamo cominciato a pensare che non era un caso se vivevamo in un mondo, in Europa, in un mondo culturale in cui la pace ormai regnava da 50 anni. Abbiamo pensato che non era un caso se vivevamo in un mondo nel quale il benessere si andava con difficoltà ma anche con decisione affermando. Abbiamo pensato di avere un debito nei confronti di queste chiese più povere, come anche forse pian piano ci siamo chiariti nell'idea di avere un debito anche nei confronti delle chiese d'Oriente. È la colletta di San Paolo, dell'Apostolo, la colletta apostolica, per le chiese di Gerusalemme, che forse trova anche oggi un suo riscontro di attualità. Anche perché la considerazione era quella di avere ricevuto il Vangelo da quelle terre lontane, e se noi potevamo aprire il libro della parola del Signore era anche perché quelle chiese ce l'avevano trasmesso negli anni lontani. Così ci siamo accorti, nell'ospitalità potuta offrire vivendo a Roma, della loro difficoltà, delle loro divisioni, del loro esodo sempre più impetuoso, ma soprattutto della loro solitudine e del loro isolamento. Rispetto all'esodo, tante volte ci siamo scontrati con tante domande, forse con due in particolare. Che cosa fare? Farli rimanere? Aiutarli a rimanere o aiutarli ad andar via? L'esodo delle chiese d'Oriente è infatti un fenomeno che molti conoscono, tragico, e che, diciamo così, distingue le comunità che dalla Turchia, dal Libano, dalla Siria, dall'Egitto, dalla Palestina, un po' ovunque, distinguono queste antichissime comunità che testimoniano in una terra così preziosa la fede nel Signore. Più volte ci siamo chiesti anche noi se aiutare a restare o aiutare a partire, e alla fine forse ci sembra una domanda a cui è difficile rispondere. Forse nella via della solitudine, dell'aiutare questa solitudine, dell'aiutare questo isolamento, bisogna accettare di trovare solo lì una risposta, aiutare questi cristiani a stare nella misura in cui vogliono restare, a partire quando vengono attratti da un'Europa che bene o male si presenta loro tante volte come un miraggio di ricchezza, di benessere, di libertà, di tranquilla cristianità e tante altre cose. Per noi, dunque, la fortuna di essere in Europa e a Roma ci è apparsa dunque come una grazia e non come una fortuna, e quindi segno di una vocazione, vocazione all'accoglienza e all'amicizia verso queste chiese che portavano con sé una tradizione tanto antica e una missione così alta. La storia di questa chiesa, che Corbon chiama la chiesa degli Arabi, è intrecciata infatti, e qui per questo parlo di una missione alta, con quella dell'Islam, un'arabità in comune di cui spesso si è scritto e si è detto. Monsignor Neofitos Edelby, arcivescovo greco melchita di Aleppo, scrive in questo senso: i cristiani arabi sono un anello di congiunzione. Senza i cristiani arabi il mondo musulmano sarebbe più chiuso in se stesso. È una lunga storia in comune quella tra cristiani orientali e musulmani, una storia di amicizia, di incontro, di convivenza insieme. Questa storia, dice sempre Edelby, è segno di una vocazione. Il Signore aspetta qualcosa dagli arabi cristiani. Noi abbiamo una vocazione nel cuore dell'Islam. Siamo arabi come molti musulmani, ma cristiani. È una vocazione specifica e non certo facile. Essere ponte coi musulmani è in questa fase fondamentale. Aprire la porta del dialogo, della convivenza, della coabitazione è davvero per queste chiese che vivono nel mondo arabo un'importante vocazione, un'alta missione. Sostenere quindi questa vocazione con l'amicizia, con l'accoglienza, con l'impegno a far conoscere tutto questo in Europa, ci è sembrato qualcosa che noi, come cristiani ricchi, come cristiani europei, potevamo e dovevamo fare. La via dell'amicizia con questi cristiani arabi spesso ci ha riservato frutti inaspettati. È stato per esempio il caso di alcuni profughi libanesi, cristiani di diverse confessioni, quando durante la guerra dello Shuf, una fase piuttosto calda della guerra in Libano, attraverso il patriarca melchita sono venuti in Italia ospiti nostri. È stata anche la vicenda di alcuni cristiani egiziani, i copti, i quali presenti in piccole comunità in Italia, a Milano, a Brescia, a Torino, ma anche in Italia, anche a Roma, hanno chiesto alla comunità un luogo dove poter pregare. La comunità ha messo a loro disposizione una piccola chiesa nel territorio della parrocchia di Trastevere. E questo rapporto è cresciuto nel tempo e nell'amicizia, anche attraverso dei contatti che esulavano evidentemente dalla preghiera. 2 anni fa, un vescovo copto, metropolita della chiesa copta in Egitto, un giovane vescovo, è venuto a bussare alla nostra porta per ringraziarci di questo gesto, per passare con noi qualche momento, per cercare di capire di più come mai dei cristiani latini, dei cristiani occidentali, offrivano ospitalità alla chiesa copta. Da qui è nato un invito in Egitto, paese nel quale eravamo già stati, ma evidentemente l'incontro con questo vescovo ci ha aperto le porte di un'amicizia più profonda con la chiesa in Egitto. Abbiamo tratto qualche riflessione da questa storia che in fondo è intessuta sul panorama dell'amicizia, sullo sfondo dell'accoglienza. Non chiudersi in quello che già si fa, non chiudersi in quello che uno già sa, ma essere pronti all'accoglienza. Tutti i cristiani sono nostri fratelli, soprattutto quelli più poveri, soprattutto quelli che bussano alla nostra porta a motivo della loro povertà. E poi, in maniera più larga, la fede nell'accoglienza abramitica, quell'accoglienza per la quale Abramo accolse nella sua tenda, nell'ora più calda del giorno, questi 3 ospiti. Vincere, dunque, nella fede per l'accoglienza, nella fede per l'amicizia, la paura dell'incontro con un mondo più largo, forse un po' sconosciuto, che parla una lingua diversa, che anche nello stesso panorama cristiano si muove, pensa e vive con tradizioni diverse. Tutto questo evidentemente apre un'ulteriore conseguenza importante, ed è quella di una dimensione ecumenica nuova, nella quale il colloquio, l'incontro su tematiche e su aspetti dogmatici va accompagnato con un discorso di amicizia, di conoscenza, di mutuo incontro. Questa accoglienza, del resto, è stata vera da sempre per la comunità. Accoglienza in Italia per la povertà antica, i vecchi poveri, ma anche per la nuova povertà. Fra questi nuovi poveri, senza dubbio possiamo parlare degli stranieri. Quanti sono? Quanti sono i musulmani nel nostro paese? È certo che la recente normativa che tentava di regolarizzare l'ingresso degli stranieri in Italia, soprattutto evidentemente l'ingresso di quegli stranieri che provengono dal sud del mondo, si è rivelata insufficiente. Oggi in Italia si parla di un milione e mezzo, qualcuno addirittura ipotizza la cifra di 2 milioni di stranieri in Italia. La percentuale dei musulmani anche qui oscilla notevolmente, ma la cifra più accreditata è quella intorno ai 200.000 musulmani. In ogni caso, oggi sicuramente l'Islam, la presenza di musulmani, fa dell'Islam la seconda religione del paese. Per noi, come comunità ecclesiale, si è trattato di compiere una lotta innanzitutto contro l'ignoranza e contro il pregiudizio. Arabo voleva dire terrorista, palestinese voleva dire tu pur musulmano. Fomentata anche da alcuni episodi avvenuti nel nostro paese a carattere terroristico, tra tutti ricordo l'attentato a Fiumicino del 1984, Natale del 1984, questa cultura si nutriva anche di un'approssimazione, di un'ignoranza, di un scarno discernimento dei fatti e delle persone. Di nuovo, per noi si è trattato di seminare la fiducia nell'incontro. Voci di chiusura e voci di razzismo rimbalzavano un po' in Europa, dalle pene appunto in Francia ad altre manifestazioni anche in Italia. 2 anni fa un'inchiesta da noi svolta, una semplice inchiesta da noi svolta nel Licei Romani, presso i liceali appunto della capitale, dava a intendere un risentimento, una preoccupazione, non certo un atteggiamento di apertura nei confronti di questi stranieri. A marzo vorremmo organizzare proprio su questo problema un convegno sul razzismo a Roma, nel quale volevamo invitare anche il Cardinal Martini per sottolineare come ci sia una strada, ci sia una via, che è al di là di un discorso di nervosa presa di posizione. Chiudersi è per noi un assurdo evangelico, ma chiudere le porte è anche una follia laicamente parlando. Come si potrebbe risolvere altrimenti il problema di queste presenze straniere? Come si potrebbe altrimenti risolvere il problema di questi stranieri che dal sud bussano alla nostra porta? Fra l'altro, se guardano a noi, molte volte c'è anche un motivo storico. Basti pensare alla presenza, sia pur così ridotta per la nostra storia patria, però alla presenza coloniale italiana in Libia, in Etiopia, in Eritrea, che fa sì che molti appunto etiopi, eritrei, libici guardano talvolta l'Italia come un paese, come un punto di riferimento. E del resto è così per gli altri paesi, penso alla Francia per quanto riguarda il Maghreb, o l'Inghilterra per la provenienza di altri stranieri del mondo asiatico. E poi c'è questa sproporzione, c'è questa pressione del sud del mondo che in qualche modo interroga anche la nostra economia e la nostra civiltà. La risposta non può essere semplicemente un rifiuto crudo, forse talvolta nutrito di un po' di ignoranza. Di nuovo, nell'accoglienza c'è una chance. Ieri una coabitazione sembrava più possibile al sud e alcuni spiriti acuti, un po' profetici, l'avevano sognata e tentavano di prepararla. Oggi siamo interrogati a casa nostra. Come cristiani occorre ripetere l'esperienza di Mamre, la filoxenia, l'accoglienza, soprattutto con chi guarda l'Europa con diffidenza. Infatti, questo è un ulteriore problema nei confronti dell'incontro con il mondo musulmano. Spesso esiste un immaginario dell'Europa per quanto riguarda i nostri amici musulmani. La presenza musulmana in Italia, infatti, comincia a essere un fenomeno che in qualche modo ci riguarda. In un documento che la comunità di Sant'Egidio ha scritto nel 1986, Stranieri nostri fratelli, si parla appunto di questa presenza. L'incontro con comunità cristiane vive, che pregano, può essere per i musulmani la rivelazione di un aspetto inedito dei nostri paesi. In queste comunità si incontra la simpatia dei credenti per tutti gli uomini e le donne che credono. Indubbiamente, i cristiani non possono chiedere nulla ai musulmani in ragione della loro fede, ma certo non debbono nemmeno gioire del deperimento della loro stessa fede, della fine della loro preghiera, considerando questo fenomeno un processo di modernizzazione. I cristiani debbono chiedere ai musulmani di restare tali, come buoni credenti e uomini religiosi. La simpatia e il dialogo tra gente di religione ha alle sue spalle una lunga, anche se non univoca, tradizione nei paesi arabi, dove l'Islam è maggioritario. La nostra etate, la dichiarazione conciliare sulle religioni non cristiane, va applicata e vissuta nelle nostre chiese locali, con quella carica di fiducia e di speranza propria del Vaticano II, che qualche difficoltà, più o meno notevole, non può logorare. È così dunque che quello che facciamo a Roma, quello che facciamo in altri luoghi d'Italia come comunità, si esprime e si rifà un po' a questa sensibilità. A Roma e in altri luoghi, a Genova, in una piccola cittadina sul litorale appunto romano che si chiama La Dispoli, esiste la scuola per gli stranieri, che raccoglie più di 800 presenze, 750 a Roma, di cui 500 sono musulmani, 100 alla Dispoli, di cui circa 72-73 sono musulmani, una sessantina a Genova, di cui 21 di religione musulmana. La scuola vuole essere un concreto aiuto per l'integrazione di queste persone nel nostro paese. Conoscere la lingua, saperla parlare, saperla leggere, saperla scrivere. Un'occasione di familiarità, un'occasione per l'integrazione, un concreto dono che la comunità cristiana fa a questi nostri fratelli. Ma poi, accanto a questo, nasce una possibilità di familiarità nuova. È il senso dell'accoglienza concreta durante le feste che caratterizzano l'anno musulmano. Eid al-Fitr, Eid al-Kabir, Eid al-Adha sono le feste nelle quali i musulmani si raccolgono, offrire ospitalità come capita a Roma, come capita a Genova, è un'occasione concreta per testimoniare loro la nostra vicinanza e la nostra amicizia. Anche durante le feste di matrimonio, offrire loro la possibilità di un incontro, di festeggiare, secondo la tradizione musulmana, questo importante avvenimento nella vita della coppia e quindi anche tutta la famiglia che si raduna attorno a loro, è un'occasione importante. Poi, accanto a questo, la comunità ha sviluppato un centro di accoglienza, di prima accoglienza, per le tante domande che aggrediscono il musulmano e lo straniero al suo arrivo in Italia. Al centro di accoglienza di Roma sono passate dall'85 a oggi più di 4.500 persone, di cui calcoliamo 3.500 siano di fede islamica. La mensa, che è stata aperta per i pasti serali sempre a Roma nel novembre scorso, nell'autunno scorso, vede una presenza tutte le sere di circa 500 persone, di cui circa 85% sono ancora di nuovo di fede musulmana. Infine, l'anno scorso è stata aperta una casa accoglienza per gli stranieri che noi abbiamo chiamato Tenda di Abramo. I 60 ospiti di questa casa, dei 60 ospiti di questa casa, 45 ancora sono di fede musulmana. Le percentuali di questo nostro tentativo di amicizia concreta con questo mondo, con questa gente che chiede a noi accoglienza, stanno a dimostrare come il problema dell'Islam in Italia divenga sempre più un problema urgente, un problema concreto, un problema di fronte al quale bisogna essere preparati all'incontro. L'Islam emerge da questo poliedrico mondo che arriva a bussare alle nostre porte. Ne emerge un Islam molto diversificato. Un conto è essere musulmani cresciuti nella tradizione maghrebina, altra cosa è essere musulmani dell'Harar, dell'Etiopia, dell'Eritrea, delle regioni dell'Africa o per esempio del Corno d'Africa. L'Islam che arriva a bussare alle nostre porte non è lo stesso. Bisogna avere la sfumatura, l'orecchio per accogliere le tante domande e le diverse tradizioni con il quale l'Islam si presenta a noi. La testimonianza di un Occidente diverso dal loro immaginario è qualcosa di estremamente importante. L'Occidente, lo sappiamo bene, è spesso per loro qualcosa a cui loro pensano in maniera distorta. L'Occidente è consumismo, l'Occidente è edonismo, l'Occidente è ateismo, l'Occidente è laicismo. La testimonianza di un Occidente diverso, di un Occidente più accogliente, di uomini e donne di fede che si fanno vicini a loro, di cristiani come gente che crede e che ama chi crede, è qualcosa di importante che questi nostri fratelli, questi nostri amici, sapranno portare una volta che ritorneranno, se mai ritorneranno nel loro paese, come una coscienza acquisita. Non fuggire quindi le loro domande sulla religione, anche se talvolta saranno delle domande aggressive, un po' insinuanti, cariche appunto di quel pregiudizio che non necessariamente non può essere sciolto con la pazienza e con il dialogo. La testimonianza di essere, in quanto cristiani, gente generosa, gente di preghiera e poi soprattutto amica fedele. La nostra etate ci invita a questo, quando ci ricorda che la Chiesa guarda con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente. La domanda sulla nostra religione, sulla nostra fede, il pregiudizio che talvolta l'accompagna da parte di chi emigra verso di noi è un segnale di come ci sia un grande mondo, il grande mondo dell'Islam, che ci guarda e ci giudica. Giudica la nostra società, guarda e giudica la nostra religione, la nostra famiglia, la nostra cosiddetta modernità, la nostra civiltà, la nostra ricchezza, i nostri costumi. Anche noi, per tanto tempo, abbiamo creduto di poter guardare e di poter capire il mondo musulmano. C'è stato tante volte, nonostante le diverse parentesi di incontro prolifico e fecondo, c'è stato tante volte come un muro di ignoranza, di pregiudizi, di anatemi reciproci che ci stiamo un po' lanciando. Il Vaticano II, in particolare appunto con la dichiarazione Nostra Aetate, apre per i cristiani, per noi cristiani, una fase nuova. Il Sacrosanto Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e ad esercitare sinceramente la mutua comprensione. C'è stata, dopo il Concilio, e molti di noi, quelli più presenti, io no, sono quelli più presenti, lo hanno vissuto come protagonisti, una fase importante, una fase decisiva, una stagione di speranze e di ottimismo. È stata la fase che ha contrassegnato i primi passi del segretariato per i non cristiani. È stata la fase che ha contrassegnato l'attività del Cardinal Pignedo e di Monsignor Rossano, che potremmo dire è culminato con l'invito del Cardinal Pignedoli a Lazar nel 1974. Ma ci sono state poi anche le prime delusioni, tra tutte ricordo l'incontro di Tripoli del febbraio 76. Da più parti oggi si ascolta una domanda, una recriminazione, una riflessione un po' nuova, una sorta di rivendicazione. Ci abbiamo provato, abbiamo tentato, ora tocca un po' a loro darci un segnale nuovo. Questa è una posizione che sempre più frequentemente sentiamo e ascoltiamo, e effettivamente basa la sua motivazione, il suo motivo d'essere, anche su tanti fatti concreti. Ma al tempo stesso è una posizione di speranza. Non c'è via d'uscita, se non forse il ritorno al passato. Il nostro tentativo di amicizia non è ingenuo, se non lo è, se non come lo è l'amicizia. Il nostro tentativo di un dialogo che vada al di là delle delusioni, che pure esistono, che vada al di là delle difficoltà, che pure esistono, che vada al di là della distanza, che pure c'è, non è qualcosa di ingenuo, se non come è ingenua l'amicizia. Infatti, pensiamo che non ci sia nemmeno alternativa. Alla chiusura non possiamo rispondere come cristiani con altrettanta chiusura, e come cristiani dobbiamo portare avanti la fede in un dialogo che non si interrompe. Il primo passo allora è farsi conoscere. Il primo passo allora è conoscere. Nell'85 è venuto a Roma, invitato dalla comunità di Sant'Egidio, il Gran Muftì della Repubblica Araba Siriana, Hamed Kaftaro. Tra le altre cose raccontava un apologo di due uomini che si scrutano da lontano nel deserto. L'uomo che guarda e che racconta questo apologo non riconosceva l'altro uomo, anzi, talmente era lontano che quasi sembrava una bestia feroce, un animale, un leone del deserto. Si avvicina a quest'uomo e lo riconosce come tale, ma non sa se è amico o nemico. Nell'incontro, nell'avvicinarsi, nello stringersi amichevolmente gli uni gli altri, quest'uomo riconosce in quell'uomo prima scambiato per un leone ruggente e poi per un potenziale nemico qualcuno che lo può aiutare, che può fare la strada insieme. Questo apologo si ricollega a quello che dice la Nostra Aetate, la mutua comprensione. Di fronte a questo, a volte si sente dire, e ripeto, con buon motivo, con motivo di pensarlo e di dirlo, si sente ripetere la noia, la fatica, la difficoltà di essere sempre ai primi passi. Io credo che non importa, io credo che bisogna continuare. Questo, il fatto cioè di essere sempre ai primi passi, per il nostro lavoro, per la nostra vocazione, per il nostro essere cristiani, non è decisivo. Forse non saremo noi a vedere i risultati di questo lavoro. Non è detto che il nostro tempo sia il tempo dei musulmani. Vi spiego meglio. Per tanto tempo, per tanti secoli, per diversi anni, la percezione dei cristiani nei confronti dell'Islam non è stata una percezione positiva, amichevole. Se con l'inizio degli anni 60 la Chiesa guarda con diversi occhi, con diversa sensibilità a questo mondo, non è detto che questa percezione debba essere immediatamente, in maniera osmotica, trasmessa al mondo musulmano. Forse non saremo noi a raccogliere i frutti di quello che già facciamo. Forse non è detto che i nostri amici, i nostri fratelli dell'Islam abbiano nel loro cuore lo stesso tempo del nostro. Nonostante questo, continueremo a fare quello che noi talvolta erroneamente, in maniera un po' scoraggiata, riteniamo essere i primi passi. Intanto l'amicizia crescerà, intanto l'incontro costruirà qualche cosa, intanto la fedeltà sarà una moneta che avrà sempre più valore. Oggi, io credo, essere uomini del dialogo richiede di essere anche specialisti in amicizie. Un dialogo di amicizia, lì dove il dialogo tecnico sembra tante volte essere bloccato, essere in difficoltà, essere un po' in panne. È vero, l'ho detto, lo ripeto, ci sono tanti problemi, ma non è detto che saremo noi a doverli risolvere, e non è detto che saremo noi a non doverli risolvere. Mi torna qui alla memoria l'ironia della sorte, nel senso che ci soccorre in questo tentativo islamo-cristiano l'altra religione abramitica. Mi ritorna alla memoria un racconto Shastidin sulla morte di Mosè. Quest'uomo vecchio sul Monte Nebo si rivolge a Yahweh per l'ultima volta e chiede di allontanare da lui la condanna della morte. Gli risponde Yahweh: non sta a te concludere l'opera, non sta a te entrare nella terra promessa, non sta a te ribellarti al decreto divino, ma non sta nemmeno a te sottrartene, tirarti fuori da questa via di profezia a cui ti ho chiamato. Non sta a te non morire, ma non sta a te nemmeno fuggire da questo cammino. Credo che sia importante riflettere a questo anche in questo nostro tentativo di incontro, di amicizia, di comprensione. In questo contesto si muovono le iniziative della comunità. Durante l'estate, ormai da diversi anni, dall'82, organizziamo vacanze di amicizia, gruppi giovani della comunità che vanno a visitare i paesi arabi del bacino mediterraneo. Sono vacanze importanti dove anno dopo anno crescono i rapporti con altri giovani di fede musulmana, con i giovani di fede cristiana. In Turchia, in Siria, in Libano, in Egitto, in Algeria, in Marocco, queste vacanze di amicizia, così ci piace chiamarle, hanno segnato pian piano un solco di fedeltà che sta creando qualcosa di simpatico e di importante. Poi, dal 1985, è sorto il Comitato di Amicizia Islamo-Cristiana. È il tentativo di costruire anche a livello di incontro culturale una vicinanza con questo mondo. Le conferenze per il dialogo, che nel autunno 1985, primavera 1986, hanno avuto come protagonisti il Cardinal Duval, Monsignor Edelby, Monsignor Tessier, Monsignor Rossano, Martini, Cardinal Martini, lo stesso già citato Gran Muftì Caftaro, sono state un momento importante di incontro a livello culturale. Una nostra delegazione è stata presente al ricordato incontro del Papa a Casablanca nell'estate 1985 e abbiamo collaborato con il segretariato per i non cristiani alla preparazione della giornata di Assisi. Questi ultimi due anni hanno visto, proprio in continuità con quella giornata di Assisi, l'organizzazione della preghiera per la pace. Uomini e donne di religioni diverse sono stati invitati a Roma per incontrarsi, per pregare attorno alla pace e per trovare insieme, per testimoniarsi l'un l'altro, la radice della pace nelle diverse religioni. Per quanto riguarda il mondo musulmano, ci sono state presenze di Al-Azhar, dalla Siria, del Consiglio Superiore Islamico Algerino, del rettore dell'Università Qurawiyyin nel Marocco, il Mufti di Gerusalemme, i professori dell'Università degli Emirati Arabi Uniti, dall'Arabia Saudita, dalla Tunisia e anche dall'Italia, il professor Quadallan qui presente. Anche rappresentanti delle confraternite come la Lawia dell'Algeria. incontri di preghiera e di mutua conoscenza, incontri di avvicinamento, incontri di amicizia, nei quali pian piano si costruisce non tanto sul terreno tecnico, teorico, dogmatico, quanto piuttosto sulla fiducia nell'incontro, nella conoscenza reciproca. È una fase tesa per il Mediterraneo. Le vicende della Palestina, le vicende del Libano, le vicende che ha ricordato di Cipro lo stanno a testimoniare. Ma forse è proprio il momento in cui è più importante creare un ponte di amicizia e non un muro. Non crediamo di essere ingenui, o meglio, solamente nel senso dell'utilità dell'amicizia, ma questa è anche l'utopia cristiana. Se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne due. Come Mosè, anche noi crediamo che queste miglia siano le miglia di un esodo, le miglia di un accompagnarsi, le miglia di una pazienza amichevole. Non starà forse a noi compiere tutta l'opera, ma non sta nemmeno a noi sottrarcene. Non starà forse a noi compiere tutta l'opera, ma ugualmente compiamo, assieme a tanti, l'esodo dalla distanza, dai muri reciproci, l'esodo da quella distanza che la disillusione non potrà mai colmare. Grazie. Ringrazio il carissimo Don Vittorio per tutto quello che ci ha detto, e abbiamo occasione di vedere come c'è un'attività di carità che mostra realmente aspetti del cristianesimo vivente e vissuto, e credo che questa nostra conversazione abbia aiutato a vedere a largo senso le possibilità di comprensione e di dialogo con i nostri fratelli musulmani. Grazie, allora arrivederci, a domani mattina.